aspettando con costanza che arrivi Meazza, la Rossani presenta Due di Denari. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza. And we're down, we go. Ci sono fasce della popolazione più duramente colpite, persone meno tutelate, che non possono contare su uno stipendio, un'entrata fissa, e mi rendo conto anche dei nuovi sacrifici che stiamo chiedendo soprattutto ad alcune categorie. Non mi piace fare promesse, piuttosto preferisco prendere un impegno a nome dell'intero governo. Sono già pronti l'indennizzo a beneficio di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l'Agenzia delle Entrate. Come sapete, è un sistema che abbiamo già usato. Tra quelli sperimentati si è rivelato particolarmente rapido, particolarmente efficace. Ed eccoci qua, una buona giornata a tutti da Deborah Rossani. Naturalmente ancora una volta ricominciamo la nostra trasmissione, ancora una volta con il contenuto dell'ultimo DPCM del governo firmato appunto ieri dal Premier Conte, le sue parole, i ristori delle persone danneggiate, degli imprenditori, i commercianti, i baristi, tutti gli esercenti e tutti i titolari di attività economiche appunto danneggiate dall'ennesimo chiamiamolo lockdown, non è totale, è parziale, ma è totale per certe attività economiche. Bene, questi ristori, dice Conte, arriveranno direttamente sul conto corrente. Noi monitoreremo affinché questo avvenga realmente. Peraltro, alle parole di Conte di ieri, che ormai abbiamo sentito in ogni giornale radio e in ogni telegiornale ai quali ci siamo collegati, fanno il paio anche a queste parole quelle del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che cosa ha detto? Per i nuovi indennizi si lavora perché arrivino il più presto possibile ai settori colpiti. Pensiamo che l'Agenzia delle Entrate possa erogare questi contributi già entro metà novembre, forse persino entro l'11 novembre, perché ci sarà lo stesso meccanismo già autorizzato per il vecchio fondo perduto. E quindi tutti quelli che hanno già fatto domanda per questi contributi lo riceveranno in automatico. Daremo un indennizzo superiore questa volta, ha promesso il Ministro dell'Economia, di quello ricevuto la volta scorsa, perché sappiamo che anche i mesi scorsi sono stati molto difficili e quindi sarà una quota superiore. Le realtà interessate dai ristori, ha precisato Gualtieri, sono molte, sono più di 300.000, forse 350.000 tutte le aziende ed esercizi pubblici che sono oggetto delle restrizioni introdotte dal DPCM. Sappiamo di chiedere un sacrificio importante e necessario a contenere il virus e quindi per tutti costoro ci saranno indennizzi che sono solo una parte delle misure, perché lo avete sentito, ce ne sono anche altre pronte ad essere naturalmente messe sul piatto. Avremo per 3 mesi il credito di imposta sugli affitti, ha promesso il Ministro dell'Economia, l'eliminazione della rata IMU, quella in scadenza a metà dicembre, e poi naturalmente la cassa integrazione per i lavoratori e l'indennità di 1.000 euro per i collaboratori, e quindi risorse che saranno mobilitate complessivamente per circa 4 miliardi, e potrebbe essere che tutte queste iniziative siano accorpate in un solo decreto che potrebbe superare la cifra di 4 miliardi. Sarà interessante, questo lo diciamo noi, capire come saranno sostenuti tutti quei lavoratori dello sport, dello spettacolo, ancora una volta a casa per tutto il mese, quelle figure professionali che con ritardo nei mesi passati sono stati raggiunti da indennizi e provvedimenti economici, per cui dovremo attentamente vigilare su tutto l'impianto della nuova misura del weekend, naturalmente sperando che serva ad arginare i contagi. Noi lo speriamo soprattutto questo. Di cosa parliamo questa mattina? Ci sono peraltro anche un altro paio di notizie che vorrei raccontarvi, un altro paio di indagini che sono state diffuse questa mattina e che ci sono sembrate interessanti anche alla luce di tutti i temi che affrontiamo periodicamente. Ve ne dico una, l'altra non faccio in tempo, ma sarà sicuramente al centro di un'altra puntata prossimamente e di altri approfondimenti prossimamente. C'è una ricerca che è stata diffusa, che viene diffusa proprio in questi minuti, condotta dal Museo del Risparmio di Intesa San Paolo ed Episteme attraverso gli indici sintetici di sopportazione e reazione degli italiani. Sentite che cosa è stato scoperto: che il paese, di fronte a quello che sta accadendo e quello che è accaduto negli ultimi mesi, ha tenuto ma ha poco slancio verso il futuro. Le famiglie rappresentano un fattore determinante nella capacità di reazione del paese. I giovani sono pronti ad affrontare il futuro nonostante le difficoltà, e noi siamo particolarmente vicini ai giovani che vanno a scuola in questo periodo con tutte le difficoltà e ancora nuove imposizioni in materia di didattica a distanza. Le donne risultano più pronte degli uomini a reagire alla crisi. Formazione e conoscenza dei concetti base dell'economia fanno la differenza e sono correlate positivamente ad alta capacità di sopportazione e di reazione. Ci sembrava interessante partire anche con queste indicazioni, perché di questa ricerca parleremo nei prossimi giorni, visto che sta completandosi il mese di ottobre, il mese dell'educazione finanziaria. Domani avremo un'altra puntata, parleremo anche di titoli di Stato. E siccome veramente in questo momento facciamo tutti leva sulla nostra capacità di sopportazione rispetto a quello che ci sta capitando, mi sembrava anche interessante partire da questa indagine sulla collettività, anche se chiaramente sono poi indagini che naturalmente vanno a valutare il sentiment di campioni. Di cosa parliamo questa mattina e questo lunedì dopo Meteo Borsa? Partiamo tra poco con l'avvio della settimana finanziaria, un po' complicato ma già peraltro in miglioramento rispetto all'apertura della giornata. Gli indici perdevano parecchio verso le 9 di questa mattina, poi pian piano hanno migliorato. Noi torneremo a parlare di un tema che vi piace moltissimo: il super bonus 110% per i lavori di riqualificazione energetica delle nostre abitazioni. Domani c'è un'iniziativa del Sole 24 Ore, settimana scorsa è stato pubblicato un nuovo speciale, una nuova guida molto dettagliata sull'argomento. Noi questa mattina ritorniamo sul tema perché tutto l'impianto per questo super incentivo fiscale è ormai decollato. Sarà interessante capire anche quanti lavori si faranno con l'ennesimo lockdown parziale che è stato decretato ieri, e chissà se questo inciderà anche sulle decisioni delle assemblee di condominio per far partire e deliberare questi lavori. Ne parleremo con i nostri ospiti, ma soprattutto noi questa mattina, più che rifare l'ABC del provvedimento, abbiamo deciso di dare tutta la voce possibile a voi ascoltatori, per cui iniziate già a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666, leggiamo i vostri messaggi con la modalità SMS, scriveteci anche su WhatsApp, mandateci i vostri messaggi vocali, quindi tutto il super bonus 110% di nuovo questa mattina a due di denari. Saluto Mauro Meazza, ancora qualche giorno lo dobbiamo tenere lontano da noi, ma ritornerà prestissimo, grazie anche a tutto lo staff, la regia che mi coordina anche se sono da remota. Adesso direi di partire con la prima rubrica di oggi e della consueta rubrica del lunedì di partenza di due di denari. Meteo Borsa. E guardate, peraltro sto guardando anche dai messaggi che ci state già chiedendo di quanto è il ristoro. E allora, una domanda così generica, figuratevi se siamo in grado di rispondere a poche ore dal varo del nuovo DPCM. Dipenderà dalle categorie professionali, dipenderà immagino anche dai fatturati pregressi, e quindi ci saranno dei parametri in base ai quali i ristori per ogni imprenditore, per ogni categoria imprenditoriale, per l'appunto, ci sarà una gradualità appunto dei ristori che verranno immaginiamo riconosciuti, per cui non siamo assolutamente in grado in questo momento di cominciare a dare una risposta a questo tema, ma speriamo naturalmente di darvene quanto prima. Massimo Saitta, Head of Investment Advisory di Intermonte Advisory e Gestione, buongiorno e bentrovate, grazie di essere con noi anche in questa mattina complicata, buongiorno. Buongiorno a tutti. Complicata poi, per la verità, in partenza era molto complicata l'avvio delle borse continentali, poi hanno ripreso a migliorare. C'è una situazione veramente eterogenea perché il calo è diffuso in tutta Europa ma con prestazioni molto differenziate. La migliore è Londra, sta perdendo lo 0,26%, segue Parigi meno 0,53%, segue Milano meno 0,7%, Francoforte in calo di un punto. I temi della settimana sono moltissimi, tornano a riunirsi le banche centrali, È ormai partito il conto alla rovescia per le elezioni americane, ci sono delle trimestrali importanti dagli Stati Uniti, quelle delle big del settore tecnologico che pesano tantissimo sugli indici americani, ci sono le misure di contenimento varate da quasi tutti i governi europei in queste ultime ore, saitta, e per Milano però il calo della borsa adesso è dello 0,6%, come dicevamo, a quanto pare Milano tiene rispetto alle misure dettate appunto ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicate ieri, e c'è da ricordare anche che è stata benevola con noi Standard & Poor's de venerdì rispetto al giudizio che ha dato sul nostro debito sovrano. Ci dà lei qualche dettaglio in più su come giudica questa partenza di questa settimana? Allora, la partenza di questa settimana in termini generali, parlando di Europa, è contraddistinta da due cose, una alla quale avete già accennato, cioè il fatto che i lockdown stanno diventando sempre più stringenti un po' in tutti i paesi dell'Unione, e quindi il riflesso sulle economie volenti o nolenti, cioè cercando anche di fare, come dire, meno male possibile, sarà comunque negativo. Si riparla già di revisioni a ribasso delle stime sul terzo e quarto trimestre. Ovviamente la ripresa di agosto, la ripresa estiva, aveva dato delle indicazioni che adesso non sono più valide alla luce di quanto sta succedendo. In più, oggi è il giorno del cosiddetto profit warning, cioè di un allarme utili per quanto riguarda la società tecnologica tedesca SAP, che perde in borsa quasi il 20% e condiziona quindi l'andamento dell'indice tedesco e dei principali indici, diciamo, complessivi europei. Per quanto riguarda invece l'Italia, la situazione è un po' differente, perché ci sono due forze contrastanti. La prima ovviamente riguarda l'effetto lockdown anche per quanto riguarda noi, però è parzialmente compensato da una sorpresa positiva sul fronte del rating sul nostro paese, non tanto perché Standard & Poor's non ha rivisto il rating, il che poteva essere, come dire, una sorpresa a metà. Le attese erano appunto sulla possibilità che ci fosse un taglio nell'ordine del 50%, ma quello che veramente ha sorpreso è stato il fatto che invece è stato rivisto il cosiddetto outlook, cioè le aspettative in senso migliorativo, il che in qualche modo aiuta il nostro titolo di Stato e in qualche maniera aiuta anche un po' la borsa, che ha recuperato abbastanza bene dalle perdite iniziali. E insomma, ci fa piacere che le agenzie di rating quantomeno in questo momento ci grazzino da questo punto di vista, forse riconoscono gli enormi sforzi che si stanno mettendo in campo per gestire questa drammatica emergenza economica, che veramente, secondo me, peraltro ancora non abbiamo visto dispiegare tutti i suoi effetti. Farei una capatina, saitta, in Cina. Questa mattina gli indici cinesi pure sono stati contrastati, prevalentemente negativi, ma oggi a Pechino inizia l'assemblea plenaria del Partito Comunista, che più che un appuntamento politico è fortemente un appuntamento economico, perché si delineano le linee guida del 19° piano quinquennale per quello che riguarda appunto la Cina. Ci aiuta a spiegare ai nostri ascoltatori quanto è rilevante questo appuntamento, quanto sono rilevanti i target che vengono fissati in questo consesso, ricordando peraltro, l'ho ricordato in più puntate, che proprio la settimana scorsa dalla Cina sono arrivate buone notizie sull'andamento del PIL terzo trimestre, più 4,9%, che sicuramente rispetto agli standard cinesi a cui siamo stati abituati negli ultimi anni è poca cosa, ma è molta cosa se consideriamo come stanno andando le economie mondiali, che sono tutte in negativo in maniera pesantissima. E quindi ancora una volta chiedo a lei, come ho chiesto a molti suoi colleghi nei giorni passati, sarà la Cina a riprendere un po' la guida della crescita economica mondiale quando ricominceremo a guardare avanti in una fase post-Covid, che non è domani, naturalmente sarà nei prossimi mesi, ma in ogni caso quanto dobbiamo essere confidenti rispetto appunto a questa economia? Allora, partendo dal fondo, mi sento di rispondere di sì, cioè che la Cina sta riprendendo il ruolo guida in termini di crescita globale che è stata propria negli ultimi anni. Come si accennava, il tasso di crescita degli ultimi anni della Cina non è mai stato inferiore al 6%, quindi questo 4,9% potrebbe sembrare deludente, ma è veramente tantissima cosa considerando appunto lo stato delle altre economie. un andamento che potrebbe suonare quasi, come dire, propagandistico e in realtà poco confermato nella realtà, ma non è così, perché molti indicatori che traccano, che guardano all'andamento vero dell'economia cinese stanno dimostrando che in effetti l'economia è in uno spolvero decisamente buono. Basta pensare ai prezzi di alcune materie prime, come il rame per esempio, piuttosto che l'andamento paradossalmente dell'inquinamento, che è tornato a essere molto elevato, quindi da indice di un'attività economica che è ripresa sostenuta. In questo contesto la sfida del Partito Comunista è quasi come se fosse un giorno di presentazione societaria, cioè dai target della corporate China per i prossimi 5 anni, e sappiamo che in Cina i target tendenzialmente si rispettano, cioè si raggiungono. Quindi sarà importantissimo capire quali saranno gli obiettivi che il governo cinese si propone per i prossimi 5 anni, perché ci daranno un po' l'indicazione anche dei settori probabilmente verso i quali saranno indirizzati. E sappiamo che i target cinesi hanno riflessi fortissimi per molte aziende anche del mondo occidentale, quindi per molte economie del mondo occidentale. Questi saranno i temi dunque da monitorare questa settimana. Io ringrazio Massimo Saitta di Intermonte di essere stato con noi. Devo subito partire con il tema di oggi. Saitta, per quello che riguarda i temi di Piazza Affari, rimando agli ascoltatori a fra qualche minuto all'appuntamento con la borsa delle 11.30. Buona giornata e grazie, a presto. Grazie a voi, a presto. Ma se sono a casa che faccio lo smart working e volessi fare i lavori al 110%, cosa faccio? Smart working in casa con gli operai che magari mi spaccano la casa o mi montano le finestre senza le finestre? Non mi sembra una brutta soluzione. Allora, noi stamattina abbiamo due ospiti di valore mondiale per rispondere alle domande sul bonus 110%. Credo che a questa neanche loro però possano dare una risposta. Buongiorno e ben trovata Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore. Cristiano, ciao, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno. E buongiorno anche a Luca De Stefani, commercialista esperto in materia fiscale per Il Sole 24 Ore, ma direi che soprattutto esperto ormai quasi esclusivo della materia che affrontiamo questa mattina. Ha scritto pagine su pagine, chiaramente insieme a Cristiano, e soprattutto entrambi sono nel pool gli autori anche dell'ultima guida sull'argomento pubblicata dal Sole 24 Ore la settimana scorsa. Luca, buongiorno e bentrovate, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Cristiano, prima di partire con i quesiti degli ascoltatori, ce ne sono già tantissimi pronti, molti hanno già cominciato a tempestarci, ne sono molto lieta. Alle 349-238-6666 vedo WhatsApp particolarmente ricco, peraltro di domande anche molto interessanti. Vuoi introdurci tu l'evento di domani in streaming delle Sole 24 Ore, in modo tale che tutte le risposte che oggi non potremo dare magari gli ascoltatori potranno trovarle domani nel confronto appunto organizzato dal Sole sul super bonus? Sì, volentieri Deborah. Diciamo innanzitutto l'indirizzo internet dove si trovano tutte le informazioni e da cui si può anche seguire l'evento, che è molto facile, è ilsole24ore.com/superbonus. Quindi da lì si capisce bene che cos'è. In ogni caso è un'edizione speciale di Telefisco, tutta dedicata al tema del 110%, con la solita formula Telefisco, quindi è quella ormai collaudata. Quindi ci saranno le relazioni di diversi autori del Sole 24 Ore, tra cui anche Luca De Stefani naturalmente, e avremo poi in diretta anche le risposte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico su alcune delle tante questioni applicative che si sono poste nelle scorse settimane, in questi giorni ancora, su questa agevolazione che è molto ricca ma anche molto molto articolata. Dicevamo che per rispettare il distanziamento questo evento è assolutamente in streaming, quindi si può seguire online, la partecipazione è gratuita, bisogna iscriversi. Allora, senti, prima di andare alle domande degli ascoltatori, io vedo già che ne stanno arrivando un mucchio e devo dire che vi do già un quadro un po' dei temi più gettonati. Vado in banca, non mi sanno dare delle risposte sulla cessione del credito per appunto fruire dell'opzione 110%, non trovo delle aziende che si incarichino della cessione del credito. Quindi queste sono, da quello che vedo da WhatsApp, le domande in questo momento più gettonate. Ma ti chiedo, Cristiano, qual è la tua sensazione anche rispetto alle misure varate ieri dal governo e comunicate ieri? Secondo te questi nuovi semi-lockdown parziali non hanno condizionato, non è stato detto nulla rispetto all'attività delle imprese edili, eccetera, ma potranno in qualche maniera ostacolare il proseguimento dei lavori di chi vuole fruire di questa opzione? Chiaramente non è un'opzione che finisce domani o dopodomani, perché ci sono molti mesi davanti a noi, e non è detto, anche se in realtà si è discusso di cancellarlo, di ridimensionarlo di nuovo questo bonus, ma secondo te le misure delle ultime ore potrebbero compromettere un po' la prosecuzione, insomma, delle opere per chi vuole farle, per chi vuole stabilirle, decidere, vararle? Ma diciamo che qui siamo di fronte a una situazione che peggiora, purtroppo sta peggiorando di settimana in settimana. Al momento la prosecuzione dei cantieri non è in discussione, quindi se le cose dovessero andare come auspica anche il governo, cioè che questo semi-lockdown possa, come ha detto ieri il Presidente del Consiglio, rasserenare la situazione, non dovremmo avere delle ripercussioni negative. Consideriamo anche due fattori. Il primo è quello stagionale, questa non è stagione in cui si fanno moltissimi lavori. Il secondo è un fattore proprio legato alla dinamica del 110%, che è stato introdotto con il decreto rilancio nel mese di maggio. Si applica alle spese sostenute dal 1 luglio di quest'anno al 31 dicembre del 2021, è già stata annunciata a livello politico l'intenzione di prorogarlo oltre questa data, utilizzando anche forse i fondi europei, ma in ogni caso è una misura che rientra anche negli obiettivi europei di riconversione green dell'economia, di riduzione dei consumi energetici e così via. E quindi per la complessità di queste operazioni, certo, è difficile che oggi ci siano già dei cantieri in corso per il 110%. Oggi siamo piuttosto in quella fase su cui diversi ascoltatori lamentavano delle difficoltà, che è quella di individuo il professionista che mi segue come progettista, individuo l'impresa, vado in banca per cercare di capire se il credito che io maturo la banca è disposta a ritirarlo e magari a finanziarmi con un prestito ponte. Diciamo che siamo per lo più in questa fase, nella fase di studio, di progettazione, di impostazione di operazioni che, se tutto va bene, dovrebbero partire probabilmente nella fase pesante in primavera dell'anno prossimo. Quindi, allora, grazie Cristiano, ci dobbiamo fermare, faccio la borsa rapidissima per poi dare subito la parola agli ascoltatori, e oggi veramente è una puntata ricca di interventi, quindi non indugiamo oltre i mercati. Chiedo scusa, io ho comprato le berenzine e ci ho guadagnato un sacco, grazie Manera. Di denari. Salve, sono Alberto e chiamo dalla provincia di Frosinone. Ecco, chiedevo a voi se era possibile cortesemente una risposta che potesse un attimo tranquillizzarmi, sapere diciamo con buona certezza se gli unici proprietari di più unità immobiliari situate all'interno di uno stabile hanno diritto, ecco, ad accedere all'agevolazione del bonus con tutte i crismi, cioè utenze separate, fognature separate e accessi indipendenti. Allora Alberto, adesso giriamo la domanda ai nostri ospiti, prima però con un R magari, avevamo in attesa anche Enzo da Ferrara e Giuseppe da Modena, per la verità sono due ascoltatori che ci avevano scritto delle mail, ci sembravano dei casi interessanti quelli che ci avevano sottoposti, per cui abbiamo deciso di richiamarli questa mattina, loro prontamente hanno risposto al nostro appello. Enzo da Ferrara, benvenuto e grazie. Ah, buongiorno. Ti dica tutto, così mettiamo insieme tutta una bella raffica di domande per Luca e Cristiano. Va bene, Il mio problema è questo: io ho un'unica casa suddivisa in due appartamenti, uno che diciamo lo usa mia madre e un altro che lo usa la mia famiglia. Quando sono andato per fare per il 110%, ho capito alla fine che bisognava, almeno da quello che ho capito io, avere un ingresso indipendente sia dalla parte della sulla strada sia dall'entrata in casa. Invece la mia casa ha un unico ingresso sia sulla strada che sull'entrata in casa. Ma lei, Enzo, è andato a chiedere informazioni ad un'impresa? Chi le ha fatto questa consulenza? Me l'ha fatta un commercialista. Ah, ecco, allora quindi bisognerà capire appunto se è corretta questa interpretazione. Allora, Luca De Stefani, Luca, siamo in grado di dare una risposta ad entrambi gli ascoltatori, da Frosinone a Modena, a Ferrara? Certo, allora la problematica è una problematica molto importante, in quanto si trattano entrambi le due problematiche dell'unico proprietario, esatto, dell'edificio. Simile. Allora, nel primo caso abbiamo un unico proprietario con accessi separati, nel secondo caso invece abbiamo l'unico proprietario con un unico accesso e quindi lo possiamo considerare un condominio sarebbe, però in realtà l'agenzia di entrate ha detto di no, quindi nel secondo caso sicuramente non è possibile. L'agenzia di entrate ha chiarito nella circolare 24 di quest'anno che l'unico proprietario con accessi comunque comuni delle due unità immobiliari con accessi comuni non può essere considerato un condominio, anche se questa circolare dell'agenzia di entrate è in contrasto palese con tre precedenti risposte dell'agenzia delle entrate sull'ecosisma bonus del 2020 e del 2019. Per quanto riguarda invece la problematica dell'altro caso, il primo, quello quindi dell'unico proprietario di due di abitazioni, più in, sì. Esatto, la classica bifamiliare orizzontale, cioè consideriamo più la classica bifamiliare orizzontale con due accessi separati. In questo caso, se uno va a leggere la frase che è indicata nella circolare 24, subito di primo acchito direbbe no, non si può avere l'agevolazione. Secondo molti autori, io tenderei una risposta da parte delle agenzie date, in realtà questa tipologia di intervento è un intervento agevolato per il fatto che comunque l'agenzia di entrate indica questa limitazione nel paragrafo dei condomini, quindi dice non sei un condominio però comunque rientri nell'altra casistica, ma non lo dice chiaramente, lo diciamo in maniera indiretta noi, qualche autore lo dice perché appunto l'agenzia di entrate ha fatto questa precisazione nell'ambito del paragrafo 1.1 della circolare 24/E e quindi indirettamente si dice no, l'agenzia di entrate ha detto no, tu non sei un condominio, punto e basta, però non dice tu non puoi essere agevolato anche, considerando il fatto che sei una abitazione, una bifamiliare orizzontale. Ecco, quindi è un po' complicata. Allora, ecco. Però è complicata e mi sembra che appunto poi da quello che dici, Luca, l'Agenzia delle Entrate in passato non abbia esattamente interpretato le norme pregresse nella stessa modalità. Mi pare che il punto sia anche un po' questo, no? Contribuente, esatto, in precedenza con la risposta 137 e 139 del 2020, oltre che la 293 del 2019, ha detto sì, in qualunque caso in cui c'è un immobile con due abitazioni di un unico proprietario, in tutti i casi lo consideriamo un condominio, quindi agevolato con, nel caso specifico, l'ecosisma bonus, che invece prevedeva specificatamente il fatto che uno fosse in condominio vero e proprio, però l'agenzia di entrate in quelle tre casi là ha detto sì, puoi essere agevolato con l'ecosisma bonus. In questo caso per il super bonus ha detto sicuramente se non sei agevolato, se sei un unico proprietario con due unità immobiliari non con accessi autonomi, quindi la bifamiliare verticale la diciamo, mentre se sei la bifamiliare orizzontale, dalla frase delle intentate sembra che non ci sia il bonus, però insomma possiamo avere degli spiragli interpretativi per concedere questo bonus, anche se appunto magari l'evento in streaming del Sole 24 Ore di domani potrebbe essere l'occasione giusta per avere un'interpretazione univoca di questo problema. Cristiano, dalla carrellata di messaggi che ci stanno arrivando, Cristiano Dall'Oste, su WhatsApp, leggendo che ci sono molti ascoltatori che lamentano il fatto che gli amministratori di condominio sono un po' spaventati dalla prospettiva di imbarcarsi nella come dire, convocazione di assemblee che possano deliberare lavori così importanti, perché temono la farraginosità di tutto l'impianto normativo. Questo lo abbiamo capito, ma d'altronde lo sconto fiscale è altrettanto importante e quindi un po' di sforzo è necessario. E soprattutto credo che molti temano il fatto di doversi confrontare con condomini che sono certi che il lavoro si fa a costo zero. Credo che questi siano un po' i temi che avete intercettato anche voi del Sole 24 Ore. Cristiano. Sì, certamente l'idea di avere una detrazione che è pari al 110% dei lavori, quindi spendo 10.000 e il bonus fiscale è 11.000, questa situazione ha creato l'aspettativa di poter fare tutto senza spendere mai nulla. In realtà ci sono alcune spese che il committente privato o anche il condomino, se stiamo parlando di un condominio, deve mettere in conto, quantomeno di anticipare. E poi probabilmente, poi qui bisogna vedere un po' caso per caso se utilizzo direttamente la detrazione, se cedo il credito all'impresa, se lo cedo alla banca e così via, ma diciamo che qualche punto percentuale di spesa alla fine rimane a carico del contribuente. Questo è bene chiarirsi le idee. Partiamo da un aspetto, ad esempio, ci sono molti amministratori di condominio che ci vanno con i piedi di piombo, un po' per prudenza, un po' per essere sicuri di evitare problemi. Ci sono una serie di verifiche preliminari che vanno dalla diagnosi energetica al riscontro dello stato legittimo dell'immobile, cioè verificare che non ci siano abusi edilizi almeno sulle parti comuni, esatto, così via, che sono tutta una serie di attività propedeutiche che vanno necessariamente remunerate da chi le fa. Vanno remunerate. Ovviamente sul mercato si trovano anche soggetti che offrono queste attività gratuitamente, ma qui bisogna stare attenti, perché da un lato potrebbero essere verifiche fatte in modo molto semplificato e quindi non adeguate a quello che è poi l'operazione che si va a impostare. Dall'altro potrebbero essere delle verifiche che io ti offro gratuitamente in cambio dell'impegno a eseguire i lavori quando tu li farai con me e non con altri soggetti. Quindi anche in quel caso, certo, è una gratuità apparente, una perché tu in realtà ti stai impegnando, no, a eseguire i lavori con un determinato fornitore. Quindi da questo punto di vista bisogna avere gli occhi aperti. L'operazione va progettata bene e va progettata, se possiamo dare un'indicazione, avvalendosi il più possibile di tecnici e di consulenti indipendenti che non siano necessariamente legati al fornitore, ma che operino soprattutto in ambito condominiale proprio come consulenti del condominio, individuando oppure le tecnologie, esatto, giuste e così via. Oppure magari utilizzando, Cristiano, professionisti che pure abbiano un'impresa, che magari non siano totalmente indipendenti, ma che il condominio ha magari utilizzato la consulenza in passato, quindi ci sono dei rapporti consolidati tali per cui un'impresa, una consulenza per farti una fattibilità o meno del lavoro te la fa lo stesso senza essere immediatamente necessariamente pagata. Allora, ci dobbiamo fermare perché c'è il traffico. Faccio una cosa però, volevo far fare magari la domanda a Giuseppe da Modena, perché poverino sta aspettando lì da un sacco, e siccome aveva un caso molto molto interessante, Giuseppe, se ce la fa al volo a farci la sua domanda, le rispondiamo dopo il traffico. Sì, ciao Deborah, buongiorno e buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia domanda al volo era questa: siccome io faccio il geometra professionista e sull'Appennino Toschemiliano, abbiamo avuto il caso di diversa gente che vuole comprare delle capanne che fossero fienili, scale fienili, ristrutturarle in abitazione. E mi chiedevano se in questo caso poteva rientrarci il sisma bonus con lo sgravio del super bonus. Con l'incentivo del 110%. Cioè, sicuramente la capanna, il doppio salto di qualità per quello che riguarda la prestazione energetica, la fa. Se poi tutto questo serva al contribuente ad ottenere il bonus, non lo sappiamo. Adesso Giuseppe le rispondiamo. Interessante questo approccio degli abitanti di quest'area che comprano le capanne per farci delle abitazioni, chissà se anche questo è un effetto del Covid che ci sta spingendo a cercare delle abitazioni più grandi dove poter lavorare da remoto, più confortevoli e magari, come dire, un po' al riparo da queste città dove i contagi si espandono tanto. Tanti trend interessanti quelli che stanno emergendo stamattina. Sentiamo il traffico e poi torniamo al caso del nostro amico geometra. Di denari. Allora, Luca, Luca De Stefani, torno subito da te. La domanda del nostro geometra di Modena, che ha tanti clienti che vogliono ristrutturare delle capanne e adibirle ad abitazioni, ci dà il pretesto anche per ricordare magari due requisiti minimi per ottenere l'incentivo fiscale, questo incentivo fiscale così importante, cioè far fare un doppio salto di qualità nella prestazione energetica dell'abitazione, dell'edificio che si vuole ristrutturare, e poi rifacciamo anche la famosa differenziazione fra lavoro trainante e quello trainato. E poi rispondiamo a Giuseppe, se tutto questo ci serve ad arrivare anche alla risposta del nostro amico geometra. Certo. Allora, per poter beneficiare del super bonus del 110%, o faccio l'intervento antisismico e qui e poi posso trainare il fotovoltaico, oppure, se sono nell'ambito dell'eco bonus, invece faccio devo fare almeno uno di tre interventi trainanti e poi posso trainare anche altri interventi, che sono ad esempio il cambio delle finestre piuttosto che i pannelli solari dell'acqua calda. Quali sono i tre interventi trainanti? Due riguardano l'impianto di riscaldamento, che se è un condominio deve essere centralizzato, se invece è una unifamiliare, una villa singola, oppure una bifamiliare verticale, orizzontale, quindi la classica bifamiliare, è possibile che sia un impianto di riscaldamento anche autonomo, oppure faccio l'isolamento termico di per più del 25% delle superfici esterne dell'edificio. Se faccio almeno uno di questi tre interventi trainanti, posso poi portare al 110% anche le finestre, anche i pannelli solari dell'acqua calda, poi anche il fotovoltaico e poi le colonnine di ricarica per le automobili elettriche. Bene. Le capanne dell'Appennino modenese. Qui si innesca un altro, non tanto per il sisma bonus trainante, ma per l'eco bonus trainante, questi tre interventi di eco bonus trainanti al super bonus del 110%, è necessario andare a vedere le norme precedenti dell'eco bonus, che richiedono che vi sia un edificio esistente innanzitutto, e per esistenza si intende accatastato, quindi se la capanna è accatastata, ma è nominata capanna, in realtà è un magazzino, e viene accatastato, va benissimo. Devo averci pagato anche qui l'IMU, perché vi sono alcune risoluzioni vecchie che dicono che è necessario anche aver pagato l'IMU, ma a parte l'IMU la cosa importantissima per la capanna è che vi sia un riscaldamento, vi sia l'esistenza di un riscaldamento, anche non funzionante, ha detto l'ENEA recentemente, l'importante è che sia riattivabile velocemente con una manutenzione. No, perché stavo riguardando la mail originaria dalla quale abbiamo poi tratto spunto per richiamare Giuseppe, in realtà da quello che ci raccontava sono fondamentalmente vecchie capanne con destinazione per lo più a vecchie stalle fienili, non so se ci siano dei riscaldamenti. Per l'accatastato sicuramente, quindi okay. Sicuramente non abbiamo problemi per l'accatastamento e ovviamente se non c'è da pagare l'IMU questo non è un requisito necessario, però insomma è in regola con imposte precedenti, però in realtà proprio per l'eco bonus non è un requisito così necessario. Il requisito essenziale è l'esistenza, quindi l'accatastamento e poi il riscaldamento. Riguardo al riscaldamento, ricordo la recentissima FAQ dell'ENEA, la numero 4 di ottobre di quest'anno, che ha interpretato una modifica avvenuta nella definizione di riscaldamento dall'11 giugno di quest'anno, che ha dato la possibilità praticamente di considerare un riscaldamento o comunque un impianto di climatizzazione invernale anche le stufe, i caminetti e gli apparati di riscaldamento localizzato di energia radiante, purché siano fissi. Quindi se queste stalle hanno un caminetto, probabilmente no, però anche se hanno un caminetto, anche se è un caminetto piccolo che dà una potenza limitata, la ENEA nella FAQ numero 4 di pochi giorni fa ha dato la possibilità di considerarlo un riscaldamento che può essere anche non funzionante ma riattivabile con una semplice manutenzione. Poco più di due minuti prima dei saluti, sentirei rapidamente Gerardo dalla provincia di Monza e Brianza per poi lasciare le conclusioni a Cristiano Dell'Oste. Io so che stamattina avremmo potuto toccare un milione di temi, ma non ce la facciamo, questo è un tema talmente ampio. Vi rimando all'evento online, allo speciale Esperto Risponde sul bonus 110% domani mattina con Il Sole 24 Ore. Gerardo, rapidissimo, grazie. Oh, buongiorno, sarò rapidissimo, buongiorno. Bravo. La mia domanda è questa, il mio quesito è questo. Se la cessione del credito per un condominio deve essere fatta nella totalità dei condomini, cioè mi spiego, se uno di questi non volesse accedere cioè vuole tenerselo perché ha comunque disponibilità lui personalmente. Ah, certo. La parte invece rimanente può essere richiesta dall'altra parte dei condomini, punto di domanda. È una domanda molto intelligente, Gerardo, la ringrazio. Cristiano, ha idea come può essere spezzettato? Ognuno prende la sua quota di cessione del credito? Sì, si può dividere, non c'è l'obbligo di fare tutti la stessa cosa, con un'avvertenza: e prima lo si decide meglio è dal punto di vista gestionale dell'operazione, perché così l'impresa o la banca sanno quanto credito possono comprare. E un'ultima avvertenza è che l'ultimissima modifica normativa consente all'assemblea di deliberare a maggioranza sulla cessione del credito, oltre che sull'esecuzione dei lavori. Quindi chi volesse fare da sé deve raccordarsi bene prima che si arrivi alla delibera in assemblea, in modo che quando si prende la decisione in assemblea, l'assemblea possa già tenere conto di questo, altrimenti rischia di essere, per così dire, sorpassato a sinistra dall'assemblea condominiale, che vota per cedere tutto il credito d'imposta mentre lui avrebbe voluto il suo utilizzarlo direttamente. Quindi bisogna raccordarsi bene, però si può fare. Guarda, abbiamo centinaia di domande, scriveteci tutti, scusate se non vi abbiamo dato l'opportunità di intervenire in diretta, ma vi possiamo rispondere nella nostra bottega pomeridiana. Due di denari, @radio24.it. Cristiano, in 10 secondi, per la guida della settimana scorsa si può ancora cercare sul sito internet del Sole 24 Ore e acquistarla eventualmente da lì? Sì, è ancora disponibile online su Shopping 24. Perfetto, grazie a Luca De Stefani, a Cristiano Dell'Oste. Domani mattina l'evento streaming sul bonus 110%, noi invece di Due di Denari torniamo domani come sempre alle 11:00. A tutti buona giornata.